Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Fate la tua risata e li vedete tutti seri. Viva l'ignoranza! Di quello che abbiamo fatto le prime due partite siamo contenti, però non ci vogliamo fare male assolutamente, quindi abbiamo questa opportunità che il mister ci ha dato, abbiamo avuto l'opportunità che il mister ci ha messo insieme e abbiamo dimostrato di saperci fare, quindi adesso sta a noi continuare su quella strada. E questo, mi trovate un aggettivo per la vostra coppia? Fallo io. Posso dire prima l'aggettivo? Ignoranti. Tu, lei è ignorante? Io sì. Bravo. Bravo. Però al di là di tutto, no, quello che mi piace di Simone sicuramente non è l'aspetto fisico, però no, però ci mette sempre la grinta, la cattiveria, e nel calcio è fondamentale avere queste due caratteristiche. Poi al di là delle qualità tecniche che tutti vediamo, l'importante è avere sempre la voglia di arrivare, lui questo ce l'ha. Lei è ignorante? Io sì. Bravo. Bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. Viva l'ignoranza. 800 24 00 24, telefoni aperti da adesso. Viva l'ignoranza, questo è il titolo oggi del nostro Tutti Convocati. Viva l'ignoranza, beh, l'avete sentito, Immobile e Zaza, perché andremo con Immobile e Zaza all'assalto dell'Azerbaigian domani sera a Palermo, ore 20:45, e meno male che c'è la nazionale, meno male che c'è un po' di aria fresca per dimenticare tutto quello che ci, speriamo, siamo lasciati alle spalle, anche se non credo, Leggo prima pagina Corriere dello Sport, editoriale del direttore Paolo De Paola, stile Juve e stile Roma. Chiede anche di, tra le righe, di rigiocare la partita Juventus-Roma di domenica scorsa. 800 24 00 24. Franco Pietani, d'autore di questa puntata, Claudio Schiattone in redazione, Robby Scaltriti in regia. E poi c'è il quizzone di Tutti Convocati. Prendete lo smartphone in mano, andate sul nostro profilo @ Tutti Convocati e guardate l'ultima prodezza di Balotelli, polipone con un polipo davanti alla faccia, l'ha pubblicato lui su Instagram un paio di ore fa. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera. E allora noi ci chiediamo, ce lo stiamo chiedendo da un paio d'ore con Franco Piantaneda, ma perché? Cosa voleva dire? Sono tutte cazzate. Voleva dire che ha mangiato pesce? Voleva dire che non si mangia bene pesce a Liverpool, anche se c'è il porto, il mare? Cosa voleva dire? 800 24 00 24. Oppure potete anche prendere e scriverlo su Twitter, qualcuno l'ha già fatto. Forse voleva dire che nell'ultimo periodo è un po' sbattuto Fabio. C'è anche chi scrive chi se ne frega. Beh, no, è importante, eh? No, è importante perché ieri, più o meno a quest'ora, il team manager della nazionale, Lele Oriali, a proposito di Twitter, dei social network, del clima che ci deve essere a Coverciano, Oriali diceva così. Beh, se magari insomma a un certo orario magari si sconnettono, forse sarebbe anche meglio. Sarebbe anche meglio se si sconnettono da Facebook, da Twitter, da Instagram. Zaza, che in nazionale c'è mentre Balotelli è a Liverpool con il suo polipone. Zaza, a proposito dei social. Io premetto che ho Twitter, però non lo so usare bene. Mi aiutano. E poi c'è Conte, che è impegnato a tenere insieme i pezzi di questa nazionale, che è uscita divisa, che è uscita immersa nei veleni, nelle polemiche. È stata una settimana difficile questa, dopo Juventus-Roma. C'è Conte che ha detto: qui comando io, il codice etico sono io, decido chi sgarra, chi va a casa, chi resta, chi viene perdonato, magari come Bonucci. Ieri Oriali, uno che con Mourinho ha lavorato gomito a gomito all'Inter, ha fatto un paragone. per fare dei paragoni chiaramente mi sembra ancora un po' presto e inopportuno. Di sicuro quello che accomuna un pochino Mourinho a Conte è quello comunque di coinvolgere tutti quanti, quindi non ci sono titolari o riserve. Oh, vi va bene il paragone Conte come Mourinho? Va bene agli juventini? Conte come Mourinho oppure agli interisti? Se sono d'accordo, se Conte ricorda Mourinho oppure se Oriali ha bestemmiato. Però l'ha detto Oriali, uno che ha lavorato con Mourinho e uno che adesso sta lavorando con Conte. 800 24 0024. E lo dico subito agli amici, lo stanno scrivendo al 349 238 6666. Ulisse, stai tranquillo, Italia immensa, ha battuto gli Stati Uniti 3-0. Oggi proviamo Franco Piantanida, lo portiamo fuori dallo scantinato, lo liberiamo dal forum e parliamo della meravigliosa nazionale che ieri, insomma, ci ha regalato due ore davvero di puro divertimento. 800 24 0024. Adesso arriva Pardo? Me lo confermate? Sì, traffico. Per me l'importante era arrivare a fare gol e basta. In che modo ci arrivavo non mi interessava, inventavo al momento. Ciccio era più cosciente forse da questo lato, era più regolare, lui ragionava l'azione. Passavamo, facevo l'occhietto e lui sapeva che io andavo sul primo e lui sul secondo. Cioè non, gli avversari diventavano pazzi anche per questo, perché di solito si aspettavano che magari dicesse allora dove io vado, sul primo o sul secondo. Noi non ci parlavamo mai, a gesti. Ciccio ha un... aveva e ha tuttora un modo di giocare completamente diverso dal mio. Con Paolo bastava a volte uno sguardo, tante volte lui mi faceva così, soltanto alzando gli occhi io sapevo che lui andava sul primo e io dovevo andare sul secondo. Siamo vintage, Pier, li hai riconosciuti? Va? Benissimo, tu? Bene, bene. Sei in ritiro? Sì, spirituale. Però ci confermi che domani ci sei, eh? Domani ci sei, domani ci sei, anche se... dovresti fare allenamento differenziato il giorno prima. Per entrare nel vestito, perché altro. Siamo vintage, li hai sentiti, li hai riconosciuti? A proposito, in queste clip trovate dal nostro Franco Piantanida, dalla nostra Claudia Schiattone, li hai riconosciuti? Non li ho sentiti. Sono Zazza Immobile di una trentina di anni fa. Uh-huh. Uno era Ciccio Graziani, sì. L'altro era Pulici. Ciccio! Sì, eccomi. Convocatissimo. Caro Pardo, levati il suo pigiama, comincia a vestirti perché tu stai ancora a dormire, stai. Grande Ciccio, che bello Ciccio. C'hai una voce, hai sta voce rauca di uno che si è appena svegliato. Posso dire che Ciccio Graziani è proprio bello. Sì, puoi dire che però stai svicolando, stai ancora dormendo, ha ragione. No, lo so. No, noi l'abbiamo chiamato un quarto d'ora fa e lui ha detto non sono pronto, chiamatemi fra un quarto d'ora. Ho fatto un sacco di cose, sono dalle urra. No, adesso ritorno a Milano e poi tutto a posto. Tutto a posto. Ciccio, cosa sei? Zazza sì. O Immobile? L'hai sentito Oriali che ha detto, mi ricordano sì. Pulici e Graziani. A volte queste simelogie si possono fare, queste ipotesi si possono azzardare, ma insomma io credo che Zazza e Immobile debbano mangiare ancora tanta carne, tanta pappa e ciccia per arrivare ai nostri livelli, lo dico a favore loro, questo serva a loro da stimolo come obiettivo, ma in questo momento sono dei nipotini rispetto a noi. Hai capito, Pier? Hai capito, roba seria. Io penso di sì, penso che abbia ragione, insomma, di pasta asciutta da mangiare ce n'è ancora tanta, di carboidrato da ingerire ce n'è ancora tanta. Ci ricordi un po' i vostri numeri? Per i pischelli come me. Beh, i numeri di Graziani e Pulici. Ti dico solo quelli di campionato. Senza togliere le coppe e quant'altro, ma in 8 anni insieme, quando le squadre erano a 16, non come adesso che giocano più partite, col pallone di cuoio e gli autogol, col pallone quello di cuoio pesante, che quando pioveva la domenica, sì. Rinviava Castellini, mi facevo il segno della croce prima di andarci di testa io, perché non arrivava un pallone, arrivava un mattone ed arrivava, perché si appesantiva il pallone, era fatto di un materiale che quando si impregnava un po' con l'acqua diventava un pochino più pesante, quindi sia nel calciarlo con i piedi sia con la testa vedevi proprio che dopo un po' cambiava la situazione. Poi no? C'erano le difese vere, c'erano gli stopper che marcavano uomo, c'era il libero. Le difese vere ci possono essere anche se oggi nel modo in cui giocano con i 4 in linea spesso l'atteggiamento tattico della gran parte delle squadre a quattro in linea è più facile magari forse andare in gol. Una volta c'avevi uno attaccato al sedere. Io mi ricordo una volta, vi dico questa, giocavamo a Milano con l'Inter e c'era, mi marcava Giubertoni, che Giubertoni, per chi non se lo ricorda, era uno stopper molto aidante, forte fisicamente, anche abbastanza rapido, ma che con i piedi, a posto dei piedi c'era due ferite a tiro, ma era la classi, il classico stopper di una volta dove contava saper marcare, non giocare. Adesso lo cerchiamo per farci confermare la versione dei ferri da stiro. Giubertoni, ma anche Francesco Morini c'aveva i piedi come due ferri da stiro, erano indiversi a quei tempi. La caratteristica dello stopper era quello di marcare e di non far segnare il numero 9. Allora, che è successo una volta a San Siro? Mi chiamò Radice a un certo punto nello svolgimento della partita per dirmi un accorgimento tattico e di tornare un pochino di più, di dare una mano anche nella fase di centrocampo. Mi giro e a un metro, neanche a un metro da me, c'era Giubertoni. Io ho detto scusa, ma è obbligato che tu senti quello che dice lui? No, perché per dirti com'era una volta, quindi c'avevi lo stopper e poi c'avevi il libero, era un po' più difficile segnare sinceramente secondo me. Ma posso dire che comunque esiste una letteratura dei giocatori con i piedi, con i ferri da stiro, nel senso che esiste, parte insomma tutta la vita da mediano di Ligabue, ma certi giocatori che sono riusciti a diventare comunque importanti, a entrare nell'immaginario, a essere beniamini del pubblico con dei piedi orrendi, insomma è ancora più difficile, ancora più letterario, quindi onore a quelli che ce l'hanno fatta da questo punto di vista. Gattuso non è che è stato dei ferri da stiro, ma insomma diciamo che nella categoria è uno dei più nuovi, poi è uno che è migliorato per esempio negli anni tantissimo, sì, anche dal punto di vista tecnico, ma credo che il miglioramento sia nato soprattutto dalla sua incredibile capacità dinamica che gli consentiva di arrivare sempre sul pallone e quindi poi alla fine gli ha dato una mano anche dal punto di vista tecnico. E poi voglia. Per quanto riguarda i numeri, dicevamo prima, sì, dai, diamoli sti numeri. Di campionato, sì, abbiamo giocato assieme 8 anni e abbiamo fatto 200 gol precisi, 102 lui e 98 io, insomma è un bello score. Con il campionato a 16, 30 partite, quindi non 38. Esatto, va sottolineato. Non so se avete sentito Zaza Immobile, che si sono definiti gli attaccanti ignoranti. A me è piaciuto da impazzire questa cosa, perché credo che ignoranza sia la libertà da pressione, l'essere anche un po' selvaggi, non essere condizionati come tanti altri, magari come quell'altro. Pier, sai che abbiamo aperto il quizzone di tutti i convocati, vai sul nostro account Twitter @ tutti convocati. Che cosa voleva dire Balotelli con quella foto con davanti il polipone? Beh, a me Zaza Immobile e Ciccio fanno impazzire, che si sono definiti ignoranti. No, l'ho visto anch'io. Cosa voleva dire? No, è quello che hai detto tu esattamente, che sono in questo momento sono due giocatori che stanno bene insieme, ma tutte e due giocano quasi un po' per conto suo, no? Hanno la capacità di cercarsi delle giocate per fatti propri. Poi è chiaro che tra un po' di tempo i movimenti e i sincronismi dovranno essere perfezionati, però in questo momento l'ignoranza è un po' una spavalderia, è un modo di giocare che in questo momento ancora secondo me non li accomuna del tutto, perché hanno giocato troppo poche volte insieme, quindi in questo senso è stata una battuta, quella di Immobili, molto molto simpatica e godibile. Sì, guarda, ti giro qualche domanda. Intanto abbiamo aperto un capitolo, Pier, giocatori con i ferri da stiro. C'è chi cita 349-238-6666, se volete mandare il vostro sms, il vostro contributo. Moreno Torricelli, c'è chi dice Chiellini e Bonucci hanno due ferri da stiro. C'è chi ricorda anche che all'epoca di Graziani c'erano gli autogol, cosa che oggi non esistono più. Ma a proposito di quello, se mi avessero assegnato le volte che ho calciato in porta e che la palla è stata deviata, è andata dentro. Quanti ne facevi? Invece di 132 ce ne avevo 170 di gol. 200 da soli. No, beh, oggi è vero, hanno cambiato anche quelle regole, per non parlare del fuorigioco, Ciccio. Ma sì, non stiamo a riapriare tutto. Il capitolo del fuorigioco, perché altrimenti ci riporteremo Juventus Roma con tutto il caos. Chiellini, tra Bonucci e Chiellini come piedi c'è una certa differenza. Bonucci ha dei gran piedi in realtà. E delle volte gli errori, alcuni errori che lui ha fatto in carriera, li ha fatti proprio perché per eccesso di sicurezza, perché gli piace tantissimo giocare il pallone. Infatti prima Juve di Conte, nelle circostanze in cui non c'era Pirlo per qualche sfalitio o infortunio, Bonucci diventava di fatto il playmaker basso. Quindi Chiellini è un giocatore chiaramente molto più fisico, muscolare, inglese come tipo di struttura, con altre qualità, insomma, sono molto diversi il nome Bonucci e Chiellini. Ma forse oggi i ferri da stiro non ce li ha più nessuno, no. Probabilmente si lavora di più anche, Ciccio, sull'allenamento, anche su quelli che non devono fare i 10, non c'è dubbio, ma i centrocampisti propositivi. Io vedo ancora gente in Serie A qualificata. Sì, ma dimmi un nome però. Ma anche lo stesso Bonucci, faccio un esempio, no? È un giocatore che quando lancia, vedi che fate anche dei bei lanci, ma l'avete mai visto fare un lancio di sinistro? Cioè tu dici gioca con un solo piede. Oggi in Serie A non sono capaci di fare un passaggio di 20 metri di sinistro. Allora è vero che oggi c'è più volontà di apprendere, ci sono anche tante altre cose, però vedo ancora tanti calciatori a livello importante che fanno fatica a giocare con i due piedi. Io se faccio un esempio con il povero Gaetano Scirea, io nella vita dico sempre che si poteva morire tutti, l'unico che non doveva morire era lui, perché era un esempio di correttezza, di tutto. Gaetano, io quando ci penso mi vengono le lacrime, perché era una persona meravigliosa. Ma Gaetano quando giocava non sapeva se era destro o sinistro, calciava bene con tutte e due, andava a fare gol. Tanto per fare un esempio, sono passati da una marea di anni, ma oggi vedo che ci sono tanti calciatori anche a ottimi livelli che fanno fatica a giocare per esempio col piede sinistro. Ciccio, mi dici una cosa prima che ti salutiamo, ma Balotelli torna o no in questa nazionale? Allora, per me stanno facendo un grave errore a non chiamarlo, perché secondo me Balotelli la chiamata se la merita per il giocatore che è. Era l'occasione logica per dirgli ascoltami ragazzo, vieni qui, da oggi il mondo qui è completamente cambiato rispetto a quello che hai trovato, se tu ti adegui e hai dei comportamenti consoni a queste che sono le nostre nuove realtà, tu sei un giocatore appetibile per noi, se no ci arrivi oggi, domani potresti non esserci più, perché dal punto di vista tecnico Balotelli merita la nazionale. Poi sul resto possiamo aprire 10 capitoli e possiamo scriverli senza problemi, però secondo me tecnicamente Balotelli, non me ne vogliono Zazza Immobile, ma per me è più bravo, certo, sa calciare le punizioni. Però torniamo a quello che ha detto Conte nella prima conferenza stampa, quando ancora non si immaginavano le convocazioni. Lui ha detto fra un buon giocatore che è un grande uomo e un grande giocatore che è un uomo medio, lui preferisce il buon giocatore che è un grande uomo. Sì, ma Pierre, scusami, non è un giudizio morale, no Pierre, scusami, però è logico che Conte si confronti adesso con Balotelli, perché non può parlare senza averci a che fare o conoscerlo, parlargli, discutere con lui, analizzare tante cose con lui. Oggi Conte potrebbe essere addirittura, attenzione, la persona giusta sotto tutti gli aspetti per far sì che Balotelli una volta per tutte capisca che oltre all'aspetto tecnico ci vogliono altre doti. Antonio, per carattere, per personalità, potrebbe essere l'uomo che potrebbe cambiare Balotelli, perché non provarci? Sì, poi io mi metto nei panni di Conte, che dopo due giorni che si parla dei social, di un po' di sobrietà, oggi apre Twitter, ammesso che ce l'abbia, e si trova Balotelli col polipone davanti. Cioè, secondo me anche Mario deve metterci del suo, però c'è la borsa, vi devo salutare. Ciccio, ciao, grazie. Un abbraccio a tutti, ciao Pier. Pier, stai lì perché ci sono tra l'altro importanti notizie che arrivano da Coverciano prima della partenza per Palermo della Nazionale. Borsa. Mario Balotelli per me, come ho sempre detto, è uno dei miei attaccanti preferiti. Un ragazzo che potrebbe starci anche lui in Nazionale e che non lo vedo assolutamente come un'ombra, anzi, cioè, non ho mai avuto il piacere di conoscerlo e di parlarci, perciò mi piacerebbe anche farlo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. E apertissimo, il doppio quizzone di tutti i convocati, il primo su Balotelli, la sua foto col polipone davanti, che cosa voleva dire, e il secondo sui giocatori con i piedi ferri da stiro, c'è chi scrive Pier Mozzini, Furino, Torricelli, te l'ho già detto, Colombo, poi c'è chi ti dice Bonucci su 10 lanci ne sbaglia 9. Pier, che cosa dici? Ho detto, secondo me Bonucci, se c'è un, se ha un limite, è proprio il fatto che certe volte esagera e insomma in carriera ha fatto 4-5 errori nati proprio dall'eccesso di sicurezza, perché ama giocare il pallone, perché è un calciatore tecnico, però insomma punti di vista. Per quanto riguarda invece Tarzan Annoni, per esempio, no? grandissimo beniamino dei tifosi, giocatore di straordinario temperamento, insomma c'è una componente secondo me letteraria, no? C'è una componente simbolica nel calciatore che non nasce particolarmente dotato dal punto di vista tecnico di madre natura, ma che riesce comunque a ritagliarsi grazie alla volontà, al sacrificio e al lavoro un ruolo, e diventa spesso un beniamino dei tifosi, perché poi i tifosi quello che vogliono vedere è la famosa maglia bagnata, cioè quello è la, sì, è la cosa, l'impegno, c'è anche un po' di retorica dietro la maglia bagnata dal sudore. Ti do due notizie da Coverciano: la nazionale si è imbarcata per Palermo questa sera, allenamento a porte aperte, domani c'è grande entusiasmo, minimo saranno 25.000 tifosi per Italia e Azerbaijan. Non sono partiti però con la nazionale Thiago Motta e Osvaldo, e le notizie non sono buone soprattutto per i tifosi dell'Inter, perché Osvaldo oggi nell'ultimo allenamento si è procurato uno stiramento di secondo grado all'adduttore sinistro, quindi non un infortunio da poco, e starà lontano dai campi da gioco almeno un mese. A casa anche Thiago Motta, che ha visto riacutizzarsi la tendinopatia, quindi queste sono brutte notizie evidentemente per Conte, anche se mi pare che forse solo Thiago Motta fosse candidato a partire titolare. Certamente non è una bella notizia per Mazzarri, che lì che fa i conti ha i problemi con l'Inter, che è in crisi, che avrà 7 partite nei prossimi 21 giorni, le dovrà affrontare senza Osvaldo. 800 24 00 24, ci sono Roberto, Ali, Massimo. Partiamo da Roberto, dalla provincia di Milano. Roberto. Sì, ciao a tutti. Eccoci. Ciao Pier. Ciao. Cercherò di essere sintetico per la radio. Credo che il mondo si divida in due, visto che l'argomento è l'ignoranza, penso che il mondo sportivo si divida in due grandi categorie. Stiamo parlando di calcio, ci sono gli ignoranti calcistici e gli ignoranti sportivi. L'ignorante calcistico non è tanto grave, è peggio l'ignorante sportivo. Sì, facciamo un nome, chi è un ignorante sportivo? L'ignorante sportivo è Balotelli. E coincide con la sua ignoranza calcistica. Lui non sa dove deve stare, non ha la cognizione del gruppo, della squadra, e è anche ignorante sportivamente, perché non sa lo sport cosa richiede. Richiede una totale dedizione, il 105%. Sì, sono molto sacchiano. Pier, forse si esagera un po' con Balotelli. È vero che tatticamente è difficile da disciplinare, ci hanno provato in tanti e non tutti ci sono riusciti. Forse però esageriamo. Guarda, io penso questo. Penso che la cosa fondamentale sia capire che non stiamo parlando di moralità, non stiamo parlando di persone, perché nessuno di noi conosce così bene, anche se chiaramente poi le frequentazioni per i calciatori facendo questo lavoro un po' ce l'abbiamo, no? Quindi insomma, tendenzialmente un po' li abbiamo visti, conosciuti, qualche volta saremmo anche andati a cena, però non abbiamo non possiamo avere la presunzione e tantomeno arrogarci il diritto di giudicare moralmente e umanamente le persone. C'è un discorso di gruppo, c'è un discorso di professionalità, tra virgolette, che tu devi dare e assicurare a una squadra. Quindi quanto è facile gestirti e inquadrarti all'interno di un gruppo. Ecco, da questo punto di vista sicuramente Balotelli non è uno facile, e questo poi spiega il motivo per il quale probabilmente sta perdendo delle occasioni rispetto a giocatori, come diceva Ciccio Graziani, che sono meno dotati tecnicamente ma che sono più facilmente amalgamabili all'interno di un gruppo, soprattutto con un allenatore come Conte che questo concetto di gruppo lo porta alle estreme conseguenze. Sì, non so se sei d'accordo, io ho percepito un po' di freddezza ieri quando tante volte hanno parlato di Balotelli, anche con Zaza, Immobile, una certa lontananza anche da parte di chi, come Immobile, con Balotelli ha convissuto ad esempio per tutto il periodo del mondiale, quindi lo conosce bene, parole di circostanza, un bravo ragazzo, uno a posto, però poi decide Conte, e come la pensi Conte in questo momento è abbastanza chiaro. Io non ho visto nessuno spendersi per chiedere che Balotelli torni in questa nazione. nazionale. Insomma, anche questo è un dato di cui bisogna tenere conto, anche se prima o poi Balotelli ci tornerà, perché è impensabile, Pier, che Conte per 2 anni ignori quello che potenzialmente è il miglior talento italiano. Secondo almeno me in non attacco. Capisci di calcio. Sì, può essere. Massimo da Modena. Pier non capisce di calcio, no? Io, eccomi. Massimo. Pronto. Eccoci. Pronto. Prego. Sente? Sì. Sì, io confermavo un po' quello che stavate dicendo voi tutti, tanto buongiorno che mi sono dimenticato di dirlo, perché fateci caso una cosa, io sono un imprenditore, ma se sapessi di assumere una persona che mi rompe un equilibrio che ho dentro interno della mia azienda, e parlo adesso di azienda, e non è molto distante da quello che è Azienda Italia, io non lo prenderei, non correrei questo rischio. Siamo venuti dal Mondiale, che sappiamo che i senatori hanno avuto una specie di rivolta contro Prandelli per Balotelli, ma chi glielo fa fare a Conti di rompere quell'equilibrio che sta cercando di raggiungere adesso? Ma chi glielo deve far fare? Se poi fossimo disperati che non abbiamo nessun altro, tenterà la carta Balotelli, ma in questo momento Conte deve fare un gruppo vincente, e non deve mettere dei soggetti, pur bravi che siano, ma che non tengono lo spogliatoio, non sanno sì, un gruppo però, Massimo, io ripeto, dove prima o poi dovrà provare a calare anche Balotelli, perché Immobile è certamente un grande giocatore, Zaza è una grande speranza, poi c'è Destro, poi ci sono tanti altri, però torniamo sempre lì, forse quello che ti può far sperare di fare un salto di qualità a certi livelli poi è quello là che sta a Liverpool, Pier. Ma guarda, sicuramente io non so se augurare all'Italia di non aver bisogno, forse bisognerebbe augurare, non ne voglio a Balotelli, di non aver bisogno di Balotelli nei prossimi 2 anni, perché vorrebbe dire che riusciamo a cavarcela senza di lui, e quindi vorrebbe dire che l'esplosione possibile di Immobile, di Zaza, di Osvaldo, anche se si è fatto male, sarebbe compiuta. Io penso che io sono d'accordo con Ciccio Graziani, cioè Balotelli ha dei colpi. Balotelli secondo me ha 2 enormi qualità, veramente ha 2 aspetti da fuori classe, che sono la potenza del tiro, questo specifico aspetto, la potenza del tiro e la forza fisica. Questi 2 elementi sono straordinari, sono veramente da crack internazionale. E poi ci sono dei difetti, il difetto principale è quello che dice il nostro amico ascoltatore, che è un difetto che certe volte insomma viene fuori, si fa spesso il paragone con Cassano, io sapevo che Cassano insomma è veramente un amico, quello sì, un amico proprio personale, e ciò non toglie che sicuramente, lo sa anche lui, in alcuni momenti della sua vita lui non è riuscito a scendere a patti col gruppo, pur essendo un bravissimo ragazzo, non è riuscito ad amalgamarsi bene all'interno del gruppo e ha perso delle occasioni, ne ha perse lui e non torneranno mai più, e Balotelli sta perdendo. Sì, Balotelli è su quella vita, strada secondo lì. Secondo me è il momento pseudofilosofico a essere fedeli a se stessi, nel senso che poi alla fine l'obiettivo è la felicità, l'obiettivo non è quanti scudetti hai vinto o quante coppe hai alzato, secondo me, per come vivo io la vita, l'importante è fare quello che ti va di fare, però certo ci sono delle cose che senza sacrificio, senza un lavoro su te stesso non riesci a fare, quindi io auguro veramente a Balotelli di trovare un compromesso tra se stesso, la sua natura, la sua voglia di sorprenderci sempre e le regole di un gruppo, perché questa cosa qui non può... Sì, fin qui non gli è riuscita, non gli è riuscita benissimo, gli è riuscita solo a tratti. Ali da Milano, Ali? Sì. Eccoci. Sì. Pronto? Prego. Buongiorno. Io voglio parlare di caso di Balotelli. Sì. Ciccio mi ha avanzato già, perché ha parlato, Conte sta sbagliando troppo. Sì, non ha convocato Balotelli. Io non so, non vedo un attaccante qua in Italia più forte di Balotelli. Non c'è. Lasciamo perdere il suo carattere. Cioè, un giocatore che gioca bene, che fa gol, perché non lo convoca? Immobile, cosa ha fatto in Italia? Zaza, cosa ha fatto in Italia? Si potrebbe anche dire che Balotelli sta facendo pochino, un gollettino in Champions e basta. Di dove sei, Ali? Io sono del Milano, sono del Mali. Del Mali, maliano. Come Keita, certo. Sì, io dico questo, io penso questo, che su alcune cose è vero, cioè dal punto di vista dei colpi individuali non esiste secondo me un talento forte come Balotelli. Però il rendimento complessivo non è soltanto il colpo di genio una volta ogni tanto, è la continuità di rendimento, è la capacità di giocare con i compagni, è la capacità di stare in un gruppo. E da questo punto di vista, sia in campo che fuori, Balotelli deve crescere, ma anche in campo, perché secondo me poi c'è anche un grande elemento tattico, secondo me, nelle piccole controindicazioni che hanno fatto perdere, che stanno facendo perdere delle occasioni a Balotelli. Cioè Balotelli è più forte individualmente secondo me che nel giocare con i compagni, non è un giocatore straordinariamente semplice da inserire all'interno di un reparto, a differenza di altri. Immobile sai perfettamente quello che ti può dare, sai perfettamente come si può amalgamare con gli altri compagni. Sì, ma sono bastati i primi 5 minuti di Italia-Olanda, debutto di Conte, per capire che Immobile e Zaza hanno un altro tipo di approccio, un altro tipo di fame, fanno un altro tipo di gioco, attaccano la palla alla profondità, cose che da Balotelli non abbiamo mai visto, e difatti ha questa immensa dote Balotelli di dividere. C'è chi ci scrive: ma perché sarebbe il maggior talento? Ha soltanto il tiro da fermo, è sopravvalutato. Ricordate che al mondiale c'era Balotelli eppure abbiamo fallito. Oppure addirittura chi scrive: ma quale forza fisica, come lo sfiori, Balotelli cade come folgorato. Ma tu pensa, Pier, che io non volevo parlare di Balotelli oggi, traffico. Intanto, carissimo Pier, ti invito ad andare su Twitter, perché in tanti stanno scrivendo, ti danno consigli per il matrimonio. C'è chi dice: tieni presente che da sposati si prendono dai 5 ai 10 kg. Quindi occhio. No, però non è vero, non è vero. Io posso testimoniare. Diciamo, io mi sono portato avanti. Sì, non è vero. C'è chi dice che Balotelli dovrebbe giocare al massimo nel Chievo o nell'Atalanta. C'è chi dice: specialista nel lasciare la sua squadra in 10. Io non volevo parlare però di Balotelli. Ma c'è niente altro da fare? Argomento è sempre appassionato. Poi adesso era un po' che non ne parlavamo. No, ma poi noi però dobbiamo anche non essere ipocriti. Zaza e Immobile vanno benissimo, giocheremo con l'Azerbaigian, poi andiamo a Malta, faremo 6 punti, metteremo il girone in cassaforte, va tutto bene. Però è lì, è un'ombra che gira, quella di Balotelli sulla nazionale. Prima o poi anche Conte ci dovrà fare, insomma, ci dovrà fare i conti. Antonio, e poi c'è questo discorso sugli ascolti, no? Perché spesso giustamente le persone ci dicono, ecco, è un po' anche il discorso delle polemiche arbitrali, no? Vi fanno fare ascolti. Fermo restando che nessun giornalista, almeno che io sappia, ha il contratto, i soldi legati agli ascolti che fa o al numero di telefonate che arriva in una trasmissione. Però è chiaro che ci sia una ricerca dell'argomento che è più interessante, che stimola di più la curiosità delle persone. Se vuoi, anche questa è una forma di democrazia, no? Parlare di una cosa che appassiona tanti piuttosto che di una cosa che appassiona pochi. Certamente Balotelli questo potere ce l'ha, è molto divisivo, nel senso che sì, ma basta misurarlo, tu dici Balotelli e la gente poi, ripeto, ha questa meravigliosa dote, divide. Antonio da Salerno, un po' come un fuorigioco in Juventus Roma. Antonio da Salerno, poi ne parliamo. A proposito, purtroppo devo parlare anche io di Balotelli. Sì, Antonio, prego. Volevo dire che Balotelli mi sembra faccia venire fuori alcuni aspetti del calcio, dello sport in generale, di superficialità nella valutazione di un giocatore, tre nello specifico. Cioè, il primo, che spesso ancora non si capisce perché, il colpo, come prima lo ha chiamato Graziani, per un calciatore in uno sport di squadra sia più importante del saper giocare con gli altri, perché alla fin fine non c'è la convinzione che il saper giocare con gli altri sia altrettanto determinante rispetto al colpo. La seconda è che spesso c'è un errore di superficialità nel valutare i giocatori sulla base del loro stipendio, ma sono semplicemente uomini, quindi non è che Balotelli cambia il suo carattere se gli danno 5, 6 o 7 milioni di euro. E la terza è semplicemente nel non capire che quando si parla di lui a proposito di tutte le fesserie che fa fuori dal campo, è che fuori dal campo è una cosa, in mezzo al campo è un'altra. Io ho seguito sempre la pallacanestro americana e non posso mai dimenticare un giocatore come Dennis Rodman. Fuori dal campo non è che ne faceva tante, ne faceva una marea. Arrivava un 10 minuti di ritardo, iniziava la partita e lui era a bordo campo con la ciclette. Sì, e però andava in mezzo al campo. Era anche più decisivo di Balotelli, almeno Antonio, per quello che abbiamo visto in questi primi 5-6 anni della sua carriera. Pier, parliamo di Dennis Rodman, comunque, che ha avuto un impatto differente sulle sue squadre di quello che Balotelli ha avuto fin qui. Ma allora, innanzitutto, vabbè, l'esempio di Dennis Rodman, essendo anch'io un modesto appassionato di basket americano, mi emoziona. E io penso sempre alla Lazio del 74. La Lazio del 74 era una squadra estremamente romantica, molto selvaggia, con due spogliatoi divisi, con gente che faceva delle cose strane, stranissime, fuori dal campo si odiava, addirittura aveva due spogliatoi, e poi però in campo riusciva a trovare un grande equilibrio. Per cui è verissimo quello che dice l'ascoltatore, esiste una... è il discorso che facevamo prima, a nessuno interessa in questo contesto calcisticamente la moralità di una persona, la profondità di una persona, che persona è, interessa quello che riesce è a fare. È la sua adattabilità, no? Al contesto. Esatto. Che a Balotelli sul discorso, colpi, sul discorso dei colpi invece secondo me è una cosa molto calcistica, nel senso che nella pallacanestro, che è uno sport a percentuale, chiaramente poi se alla fine fai 1 su 8 da 3 o se fai 7 su 8 da 3 fa una bella differenza. Nel calcio ti può bastare una giocata, un episodio per vincere una partita, quindi da questo punto di vista, soprattutto per gli attaccanti e per i portieri, che sono quelli chiaramente che sono più vicini al gol fatto, il colpo può anche essere tutto, non necessariamente deve essere calato in una prestazione a tutto tondo, anche se poi questo è un dibattito lungo. Pier, io però ti devo chiedere 2 minuti, ne abbiamo 2 purtroppo, soltanto 2. Marco Bellinazzo, ciao Marco. Ciao a tutti. Ci dici se questa è la volta buona, cioè se davvero Tacopina è riuscito a comprarsi una squadra italiana, qualcosa, ci ha provato, ha provato con la Roma, ha provato col Parma, questa volta col Bologna? Beh, è piena di sorprese questa trattativa, però pare appunto che il CDA del Bologna abbia deliberato, il 15 dovrebbe esserci l'ufficialità di questa cessione a questa cordata di imprenditori americani rappresentati da Tacopina, ricordiamolo, comunque ex vicepresidente della Roma, quindi già presente, già conoscitore di quelle che sono le dinamiche del calcio italiano, che se i numeri sono quelli usciti, insomma, fa un bell'affare, perché il Bologna è una società che è capace di fatturare in maniera strutturale 50 milioni all'anno, lui la paga intorno ai 40 per coprire una trentina di debito più altre iniziative, insomma dovremmo avere tra un po' un derby a stelle e strisce nel campionato di Serie A. Sì, la sensazione, Pierre, che possa essere una sorta di Benedetto, cioè quello che è stato Di Benedetto per la Roma, qualcuno che magari farà poi a medio termine un passo indietro per far venire avanti chi davvero ci mette i soldi. A te piace Tacopina, Pierre? E come faccio a dirti che piace Tacopina? Lo conosciamo, che ci ha provato nel corso degli anni. Tacopina l'abbiamo visto apparire e sparire tante volte in questi anni, anche in alcune circostanze su operazioni che poi alla fine non sono andate a buon fine, quindi faccio fatica a darti un giudizio vero e proprio. Sicuramente che ci sia interesse, soprattutto dall'estero, sul nostro calcio di questi tempi è un grande dono. Io penso che poi alla fine ci sono, ieri sera ne parlavamo a cena, della forza dell'Italia come paese, no? Nonostante tutti i problemi infrastrutturali, però ne abbiamo alcuni elementi che sono grazie a Dio imperdibili e che, se accompagnati a infrastrutture, alla lotta alla violenza, al merchandising fatto bene, quindi con la lotta alla contraffazione, possono riportarci su. Abbiamo dei margini di crescita, mettiamola così. Pier, ti saluto, a domani. Ciao Pier. Marco, io voglio saperlo da te se è una specie di Benedetto quello che è stato Di Benedetto per i tifosi la Roma, però adesso c'è Bet Corner, c'è il GR, quindi ti richiamiamo dopo. Ciao. Quote e pronostici. Tempo di qualificazioni a Euro 2016 domani sera con in campo Turchia e Repubblica Ceca alle ore 20:45. Vediamo dunque assieme le quote sniper per questa partita. L'1, la vittoria dei turchi, è quotata a 2:15, l'X è a 3:30, il 2 invece, con il successo della Repubblica Ceca, è quotato a 3:30. Interessanti anche le quote del gol, quotato 1:90, e del no gol, quotato 1:80. Sempre domani per Euro 2016 c'è Olanda-Kazakistan, Orange nettamente favoriti per questa partita con l'1 quotato 1:05, l'X è a 11, il 2 invece con il Kazakistan Corsaro in Olanda è quotato addirittura 35. Questa sera invece gara interessante con Slovenia-Spagna a Lubiana, si comincia alle ore 20:45 per il gruppo C. L'1, la vittoria degli sloveni, è quotata 8, l'X è a 4:50, il 2 invece è quotato 1:38. Domani alle 17 in campo pure gli azzurrini di Di Biagio per le qualificazioni europee Under 21 contro la Slovacchia. L'1, la vittoria della Slovacchia, è quotata 3:40, l'X è a 3:25, il 2 invece con il successo degli azzurri è quotato 2:05. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi. A risentirci domani. Si ricomincia, si sta insieme fino alle 16. Stavamo parlando del nuovo Bologna, quello di Tacopina, con Marco Bellinazzo. Marco, può essere Joe Tacopina quello che è stato Tom Di Benedetto per la Roma? C'è una sorta di traghettatore che poi fa un passo indietro e lascia salire sulla ribalta chi davvero gestirà, chi mette i soldi, nel caso della Roma Pallotta, nel caso del Bologna Gio Saputo, già proprietario della squadra di Montreal in Canada. Credo di sì, credo che la storia potrebbe in qualche modo ripetersi. È molto interessante la figura di Joey Saputo, origini palermitane, la sua famiglia ha costruito un impero nel settore caseario, nel settore dei latticini, e ha sempre amato il calcio, appunto fondando una squadra che oggi milita nel massimo campionato statunitense. Su Joey Saputo e sulle sue facoltà economiche giura anche Marco Tivaio, un ex del Bologna che gioca proprio a Montreal e che come dire, ha potuto vedere da vicino quanto l'interesse per il mondo del calcio di un imprenditore come Joey Saputo si sia tradotto per esempio a Montreal anche nella ristrutturazione del vecchio stadio. E sappiamo quanto abbiamo bisogno in Italia di nuovi impianti sportivi. Sappiamo anche quindi, quanto sarà difficile farlo a Bologna, che è uno stadio storico, monumento vincolato se non ricordo male, quindi particolarmente difficile da toccare, soprattutto per una ristrutturazione. Sì, sta di fatto che mi sorprende come appunto, viste le cifre che circolano, non si sia trovata una cordata di imprenditori italiani o di soci attuali del Bologna capaci, come dire, di fronteggiare l'indebitamento e di creare un nuovo business plan in qualche modo fruttuoso, perché ricordavo prima della pausa che se andiamo a guardare i bilanci del Bologna, il Bologna dal punto di vista diciamo strutturale è una società che fattura anche 50 milioni all'anno, insomma, tra diritti TV, appunto botteghino e area commerciale, per cui diciamo con un minimo investimento si poteva anche tenere in mani italiani il Bologna, e sembrava questo l'esito, no? Qualche settimana fa quando Zanetti, il patron di Segafredo, aveva garantito il suo impegno per l'aumento di capitale che permettesse di pagare gli stipendi, insomma di fronteggiare i debiti più a breve scadenza, però i soci di minoranza pare che abbiano fatto quest'altra scelta, evidentemente più remunerativa e meno rischiosa. Saremo a vedere, insomma, il 15 ottobre è annunciato, insomma, un giorno di svolta, se non addirittura l'ufficialità dell'operazione. Io ritengo che si poteva forse mantenere, ripeto, il Bologna in mani italiane, però ben venga Saputo, certo non sì, sarà sì, siamo attrattivi anche perché costiamo poco, secondo me si può anche fare questa sintesi, aveva ragione Pierre, cominciamo a essere attrattivi, in tanti cominciano a pensare di poter mettere i soldi sul nostro calcio, sui nostri club, e del resto ci sono gli esempi dell'Inter, della Roma, anche perché costiamo poco. Grazie Marco. Grazie a te, a presto Giovanni. No, no, da, no, no, da, no. Ma com'è possibile che Tavecchio punisca le squadre condannate e allo stesso tempo promuova CT Antonio Conte, anch'esso condannato? Presidente, buonasera e complimenti per il nuovo incarico. Buonasera. Il momento per il calcio italiano è difficilissimo. L'Italia sbattuta fuori dai mondiali, la violenza negli stadi, le squadre italiane che non fanno il loro cammino in Europa e che vengono subito eliminate. Il calcio italiano non è conciato come dice lei. Abbiamo preso un conduttore, abbiamo preso un grande allenatore, diciamo. Allenatore, e penso che potremmo fare del nostro meglio. Queste bellissime parole, no? Però la coerenza è importante sì o no per arrivare ai risultati? La coerenza in tutte le cose fa parte del modo di essere. I coerenti portano avanti le idee e le rispettano. La FIGC, no? Non ha ammesso al campionato di Serie B 2014-2015 la Regina, il Lecce e il Novara perché erano state condannate per l'ultimo calcio a scommesse. Per quanto riguarda invece Antonio Conte, come la mettiamo? Come intende regolarsi? Quando ci sono delle pronunce e sono state soddisfatte non c'è altro da dire. Questa scelta è stata coerente? Perché sa qual è l'impressione? Che se da una parte non vengono ammesse delle squadre per l'esito sportivo e dall'altra viene ingaggiato come mister della nazionale una persona che è stata condannata a 4 mesi di squalifica. Che poteva dirigere l'Italia. Non è che la federazione prende decisioni in base al sistema dei due pesi e delle due misure. Siamo ospiti di San Marino con degli stranieri. Arriaia con questi stranieri. Adesso non dobbiamo parlare più. Io sono il proprietario del locale. Io chiamo la gendarmeria, lei stanotte sta in galera. Oddio. Abbiamo fatto tutto. Glielo garantisco. Nel curriculum che riepiloga la carriera di Conte, pubblicato sul sito della FIGC, ci sono tutte le stagioni e tutti i successi ottenuti dal mister, tranne la stagione 2010-2011. Guarda caso, proprio quella per cui Conte è stato poi squalificato per non aver denunciato la combine di una partita del suo Siena. Come mai c'è sto buco? Non è che vi siete scordati di mettere la stagione 2010-2011 perché in quell'anno Conte ha subito una condanna di 4 mesi disqualifica. Ad un certo punto le guardie del corpo di Tavecchio iniziano a spintonarci. Non è, ci spiega sta cosa, non è che vi siete scordati perché per quella stagione Conte ha subito una condanna dalla giustizia sportiva di 4 mesi? Presidente, Presidente, Presidente, a proposito, la saluta di Bobba. Oh, queste erano le Iene ieri, in seguimento di Tavecchio. Meno male che domani sera c'è la nazionale, meno male che c'è Italia-Azerbaigian, che magari riusciamo a stare lontani un po' dalle polemiche. 800-24-00-24. Oh, perché si è aperta anche la discussione sulla squalifica di Tavecchio, se si possa chiamare squalifica, se sia un patteggiamento, se sia un'interdizione, se sia un consiglio a stare lontano dalle attività dell'UEFA. Ieri qui a tutti convocati il match Andrea Abodi, presidente della Lega di Serie B, versus Massimiliano Nerozzi, collega della Stampa. Max, ciao. Ciao, ma tutti convocati, non è scherzi a parte. No, è tutti convocati. No, perché dopo aver sentito qualche parola di Abodi pensavo fosse su scherzi a parte. Vai, ce l'hai qui. Come si fa ancora oggi a dire che Tavecchio è stata una grande scelta? Però, oddio, voglio dire, degustibus. Ha detto che non si è pentito di averlo votato. Io ho detto una cosa diversa. Cerchiamo di aiutarci a non mistificare la realtà. Una grande scelta, non l'ho detto, ho detto una scelta che aveva un senso politico per le cose che si devono fare. Se uno dice che era squalifica, dire che squalifica un autogol, a me sembra mistificazione della realtà quella, ma per carità. E infatti non è stato squalificato. Ah no, infatti è stato trattato praticamente come un affetto da ebola, dalla UEFA, cioè qui non entri, ma comunque va benissimo, non è un problema. Allora, se lei avesse letto il provvedimento dell'UEFA, non troverebbe da nessuna parte il termine squalifica. Certo. Non c'è da nessuna parte. L'errore grave è quando attraverso comunque gli strumenti di comunicazione, inevitabilmente, direttamente o indirettamente, consapevolmente o meno, si crea opinione su dei presupposti fallati perché non sono rispondenti alla realtà. E poi questa squalifica, che poi in fondo è soltanto la non eleggibilità di Tavecchio per le cariche all'interno dell'UEFA, a qualcuno ha anche sottolineato Tavecchio ha 71 anni, il limite sono 70. E poi non potrà andare al congresso di marzo dell'UEFA. È una squalifica o no questa? Ancora Abodi versus Nerozzi. Il preconcetto è che il presidente della Federazione Italiana non sarà al congresso della UEFA di marzo. Cioè, se per lei questo è secondario, ma va bene tutto, cioè, per me non è secondario. Questa è una valutazione, la Federazione Italiana è una valutazione. Ma è un dato di fatto che Tavecchio non va al congresso. È un dato di fatto, verrà comunque rappresentato dal vicepresidente federale. E poi la domanda che è la domanda di tutti. Allora, Tavecchio è razzista o no? Per quella frase sui mangia banane, su Optipo Ba, Abodi. Io ritengo che una frase non faccia di una persona un razzista. Se lei invece la pensa in un altro modo, mi auguro che abbia lo stesso metro, mi auguro che abbia lo stesso metro di paragone sui suoi comportamenti e sui suoi linguaggi. Perché noi spesso le regole le mettiamo con la doppia morale nei confronti degli altri e poi siamo sempre molto licenziosi nei confronti di noi stessi. Ma di chi? Ma di chi? Di chiunque, del cittadino, perché prima di essere presidente federale. Voi avete capito se Tavecchio è stato squalificato, se ha patteggiato, se è stato semplicemente invitato a tenersi lontano dalle attività dell'UEFA? Perché in Italia siamo capaci anche di discutere su questo, perché è vero, in quel dispositivo lì non c'è scritta la parola squalifica, e su questo ha ragione il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, che abbiamo avuto qui ieri, però è vero anche che dal punto di vista dell'immagine è una caduta per il nostro calcio. 800 24 00 24, nostro calcio che oggi ancora sui giornali parla di Juventus-Roma. Giovanni da Pisa, Giovanni. Buongiorno. Prego. Ho sentito dire che De Pala vorrebbe rifare la partita. Sì, c'è scritto così, poi glielo chiediamo, lo stiamo chiamando. Penso per cercare il pareggio, perché come mai la Roma negli ultimi 20 minuti praticamente non è uscita dalla sua tre quarti? Come mai Bonucci si trovava al limite dell'area mentre i difensori della Roma stavano rintanati nella loro area? Cioè, avevano avuto anche un giorno di più di riposo. Io non lo so, la Roma ha fatto una bellissima partita, però la Roma mi sembra che si basi tutto, quasi tutto, su Gervinho. Se non ci fosse stato Gervinho, tutte le azioni della Roma io non le ho viste. Sì, anche se devo dire, Giovanni, mi trovo abbastanza d'accordo con la lettura che oggi sulla Gazzetta dello Sport dà il presidente della Roma, Pallotta, della partita di domenica sera, episodi arbitrali a parte. quando dice: secondo me noi abbiamo dimostrato a Torino che la Roma può anche essere più forte di questa Juventus, perché in tanti dimenticano, e secondo me questo è un errore che noi abbiamo cercato di sottolineare in quel poco che si è riuscito a parlare in questi giorni anche dell'aspetto tecnico, beh, in tanti dimenticano che la Roma è andata a giocare a Torino senza tanti giocatori importanti, è andata a giocare senza Strootman, è andata a giocare senza De Rossi, che è uno dei pilastri di questa squadra, è andata a giocare senza Castan, senza Story, che sono probabilmente due titolari di questa Roma, e queste sono cose importanti, sono cose che non si possono dimenticare quando si valuta una partita che in fondo poi è stata decisa dagli episodi, ma dalla quale sicuramente la Roma esce bene, forse anche meglio della Juventus, considerato tutto ciò a cui eravamo abituati come approccio della Juventus a queste partite che valgono una stagione, che fanno la differenza e che la Juventus di Conte ci ha sempre abituato ad aggredire in una maniera diversa da quella che ha fatto la Juventus di Allegri. Enrico da Padova. Enrico. Sì, buongiorno a tutti. Non so a che punto eravate arrivati perché negli ultimi minuti non vi ho ascoltato. Volevo semplicemente intervenire su Balotelli per dire che cosa. Io non voglio fare l'avvocato difensore di Balotelli e capisco che sia un argomento che vende. Però, voglio dire, sentire paragonare Balotelli a Cassano, uno che non ha vinto niente in carriera. Balotelli, ricordiamoci che a 24 anni ci ha portato in una finale di un europeo, ha vinto, anche se non da protagonista, una Champions League, e a 17 anni, quando c'era l'Inter di Mancini, io sono interista ovviamente, ci ha fatto vincere uno scudetto, perché alle ultime partite eravamo piegati sul ginocchia con 6-7 gol. Sì, e poi non c'era Ibrahimovic e Mancini ebbe il coraggio anche di lanciarlo, perché anche in quell'anno Balotelli fu decisivo. Ma secondo me, infatti, il paradosso, Enrico, è che da quel punto di vista il meglio Balotelli lo ha dato all'inizio della sua carriera, quando era forse ignorante, selvaggio, in quel senso lì, il senso di cui ieri hanno parlato Immobile e Zaza. Maurizio da Catania. Maurizio. Salve, io volevo intervenire sul caso Tavecchio. Sì. E dire semplicemente questo, dico, quante volte ci scappa, forse perché l'altro soggetto ha un colore diverso dal nostro, quindi con questo non vuol dire l'essere razzista, perché per dire sporco negro, che mangia le banane, ma anche dire una parolaccia a un'altra persona, anche questo che vuol dire essere razzisti? No, però si può anche evitare, Maurizio, perdonami, a me non scappa di dare dello sporco negro a un altro perché sono arrabbiato e sto litigando, poi magari può scappare la parolaccia, ma siamo su due piani diversi, o no? Se gli dici stronzo, se gli dici figlio di... E non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E poi secondo me c'è anche da capire il contesto. Tavecchio parlava davanti a un consesso, stava presentando la sua candidatura da numero uno della Federcalcio, che è la più importante delle federazioni italiane. Esiste anche il contesto, quella battuta lì in quel contesto è inaccettabile, e secondo me aveva ragione chi allora chiedeva a Tavecchio, l'abbiamo fatto anche noi un passo indietro, non è la stessa cosa, o no? Scusami, quindi questo cosa significa? Significa che la conseguenza è lui è razzista, non può fare più quello che sta facendo? No, lui secondo me non è razzista, è stato certamente inopportuno, e a certi livelli anche l'inopportunità è una colpa che può portare a dover fare un passo indietro, però non l'ha fatto oramai, cioè non rifacciamo il processo di quest'estate, gliel'hanno chiesto in tanti il passo indietro, secondo me ha ragione il presidente del CONI quando dice siamo arrivati a una squalifica, o come diavolo volete chiamarla, chi l'ha votato sapeva benissimo dove saremmo arrivati, sapeva benissimo che in Europa quella frase lì non sarebbe stata perdonata, in Italia è andata diversamente. Giuseppe da Reggio Emilia. Giuseppe. Sì, buongiorno. Eccoci. Io volevo semplicemente sottolineare un fatto riguardo a Juventus-Roma. L'unica azione tecnicamente bella e degna è stata quella della Roma, è stata quella del vantaggio della Roma. Che quella del gol di Turbe. Una cosa che ha deliziato il mondo. Tutto il resto dà una misura del fatto che gli dèi hanno il senso dell'umorismo, perché vince una squadra con due rigori che praticamente sono dubbi, uno peggio dell'altro, tutti avvenuti fuori dall'area, Non sono d'accordo, Giuseppe, ma non rifacciamo per carità la moviola. No, però prego. Quello di Maicon era fuori dall'area di rigore e va bene, non ci torniamo su. Quello di Pogba e Pjanic. Se io, te e cinque arbitri ci mettiamo qui con la moviola, secondo me domani alle 14 siamo ancora qui a discutere se sia dentro o fuori. Però sì, prego, ma io vorrei Giuseppe. Sapere perché. Sì, però io vorrei sapere perché gli stessi episodi in altri contesti non sono visti mai allo stesso modo. Cioè la Juve ruba comunque, se fosse capitato a mani invertite, è questo il discorso. Non voglio dire questo, voglio dire che probabilmente il concetto di lo bello della sudditanza psicologica esiste, è inutile, in questo paese esiste. Però voglio dire l'ultima cosa, un tiro da fuori di Bonucci, no? Con un Vidal che praticamente non è in posizione attiva davanti al portiere? No, purtroppo per te il regolamento dice questo, ma no. Giuseppe, purtroppo per tutti, perché il buonsenso dice che Vidal era in fuorigioco, io lo dico e lo sottolineo. E poi abbiamo scoperto, e in realtà avremmo anche dovuto saperlo prima, che le regole in parte nell'interpretazione sono cambiate e quindi no, Vidal non era in fuorigioco. Purtroppo sarà il caso di rimettere mano a quell'interpretazione del fuorigioco perché va contro il buonsenso, ma così è. Però se riuscissimo a uscire dalla moviola di Juventus-Roma, siamo a giovedì alle 15.30, sarebbe un bel risultato. Valerio da Como, Valerio. Sì, ciao. Prego. Senti, sul caso Tavecchio, ecco, io dicevo, poniamo il caso che Tavecchio avesse detto a un calciatore tedesco, bianco o di colore, ecco, il mangiacrauti. Dimmi che differenza ci sarebbe se sarebbe stato penalizzato per razzismo. Non mi sembra che esista una letteratura, una storia di discriminazioni nei confronti dei mangiacrauti. Detto questo, se Tavecchio avesse detto in un consesso ufficiale che i tedeschi mangiano i crauti, probabilmente a Tavecchio avremmo chiesto comunque un passo indietro per opportunità, perché poi in certi consessi ufficiali esiste anche una forma, esiste uno stile, quello ad esempio che ci ha insegnato Pallotta parlando di Juventus-Roma, chiedendo di abbassare i toni. Io ho trovato surreale l'intervista ieri di Ljajic a Roma Channel su quello che è successo a Torino, sui tre gol irregolari della Juventus. Pallotta, il suo presidente, un giorno prima aveva detto beh adesso basta parlare degli episodi. Sentite Ljajic. Alla fine abbiamo fatto anche due gol, abbiamo preso quelli tre che non sono stati irregolari tutti e tre. E contro questo non possiamo fare nulla di meglio, però chiudiamola là, andiamo avanti. Il vostro avanti. L'avete fatto, insomma, il noi vostro, il nostro abbiamo fatto, poi più che altri si hanno fatto loro, non sapevamo. E poi ancora gli Aici invece su quello che è successo dietro la panchina della Roma. Ma la gente secondo me non è ancora abituata che banchine stanno in lì vicino alla tribuna. Non gli pare vero? Perché secondo me è l'unico stadio dove c'erano le banchine in tribuna e devono abituare ancora per mettere un po' di più di rispetto di noi che siamo in banchina. È successo tanto, però alla fine cosa dobbiamo fare? E questo era gli AIC ieri, 24 ore dopo che Pallotta aveva detto, mi raccomando, basta parlare degli episodi di Juventus-Roma, Borsa. C'è chi scrive, dovete ricordare che anche la Juventus aveva i suoi assenti, mancava Barzagli ed è vero, Pirlo ha giocato ma era appena rientrato ed è vero, mancava Vidal ed è vero a metà perché Vidal si è fatto fuori da solo, da quello che si è letto, però secondo me sarebbe sbagliato non ragionare sul fatto che effettivamente la Roma è arrivata con parecchi giocatori che mancavano a questa partita. Eravamo rimasti in debito con Edoardo D'Ancona. Edoardo? Sì, eccoci. Buonasera. Prego. Edoardo con la U. Edoardo, prego. Edoardo? Mi scusi che stavo proprio. Dica. Pronto? Sì. Sì, soltanto volevo fare un commento su all'elezione del titolare della Federcalcio. Io credo che si continua a fondare il calcio italiano così come si fa con altri settori. Io non capisco i giornalisti come continuano a parlare di una battuta e anche i difensori, la persona che parlava prima, perché non analizzate un po' come è il ragionamento del signor Tavecchio? Lui parla che, io l'ho sentito una sola volta, non sono giornalista, e lui dice che il calcio inglese viene migliorato con un processo di selezione, cura dei giocatori. E dopo parla del discorso dei giocatori africani, che sono grandissimi atleti, quindi con un'ignoranza che stupisce. Sì, in realtà Edoardo, è un po' più complesso il discorso di Tavecchio e sul fatto magari che alcuni limiti andrebbero messi, credo non sia nemmeno sbagliato. Il problema sta nel retropensiero di quella cosa che noi non abbiamo mai chiamato battuta, cioè abbiamo detto frase totalmente infelice a sfondo razzista, che non qualifica come razzista Tavecchio e che quest'estate doveva portare a un passo indietro. Però ne parliamo da luglio, magari possiamo anche provare ad uscirne. Ma non risponderà mai. Signor Ginta, vediamo se vuole salire sul carro della pallavolo. Non risponde. Forse sta guidando il carro della pallavolo verso le semifinali. Dai, che ci manca un set. Pronto? Carlo, stai salendo sul carro della pallavolo, eh? Tu stai salendo sul carro, ci manca un set e siamo in semifinale. Ci manca un set e siamo in semifinale, benissimo. Quando salgono in semifinale, quando saranno in semifinale... Io già lo so che tu lunedì, adesso poi noi magari andiamo in finale, oppure ci pigliamo un bronzo, oppure quarto, poi lunedì tu aprirai la puntata. Se non ti è oro è fallimento. Ecco che mette già le mani avanti, se non sarà oro sarà fallimento. Se non è oro è fallimento. Chiaro. Tu sei scappato. L'unico risultato per un mondiale in casa, l'unico risultato possibile è la medaglia d'oro. Tutti gli altri risultati sono un fallimento. Quindi tu sali sul carro con un piede e con l'altro tiri il calcio al carro. No. Sì. Non sai, vediamo. Rimango giù anche in caso di medaglia d'oro. Sì, mondiale. Di Italia 90, nessuno ricorderà il terzo posto dell'Italia come un grande risultato, un successo. È stato un fallimento, no? Sì, Brasile è arrivato quarta ai mondiali di casa, sarà mica stato un successo. Vediamo come va a finire. Sì, ma che c'entra? Quelle erano squadre favorite, noi non eravamo favorite all'inizio. E chi l'ha detto? E come l'hai detto? Noi, tutti, noi stessi, addetti ai lavori, il ranking. Comunque mondiale in casa, cioè, se sei una squadra forte come l'Italia è una squadra forte, parti per vincere. Vabbè, tu la dai su sempre, vabbè, dai, no. Vado a parlare con Zorzi che è una persona seria. Va bene, vai, ciao. No, Carlo, aspetta, no, ma volevo farti sentire Bonitta, vabbè, sentiamo, il CT. No, così con questa qualità di gioco, con questa determinazione, questa certezza delle proprie forze non l'avevo mai vista e mi ha stupito perché... Così non avevamo giocato mai, l'abbiamo fatto in un momento molto importante e credo che questo la dica lunga su quello che possiamo fare in questo mondiale. O meglio, forse lei un'Italia così l'aveva vista a Berlino nel 2002. Sì, è vero, giocavamo bene anche là, però sono due storie diverse, due storie che non hanno nulla in comune e cerchiamo di vivere questa storia perché l'altra è finita, bellissima, stupenda, ma è finita. Mi permetta, l'ha vinta anche lei questa partita perché ha fatto lavorare tatticamente molto le americane. Una squadra che se entra in ritmo diventa pericolosa. Lei ha allargato molto il loro muro, sbaglio? Sì, l'abbiamo studiata quanto dovevamo. Abbiamo cercato di puntare su due o tre cose che si sono rivelate quelle giuste. Le ragazze l'hanno fatto nella maniera chirurgica. Abbiamo un pochino fiaccato la loro resistenza e si sia visto alla fine... che hanno subito tantissimo questa cosa. Russe e brasiliane adesso hanno un po' paura? Ci guardano come noi le guardavamo come inizio del mondiale? Sì, mi fa piacere sapere che loro hanno un pochino di paura di noi, mi fa molto piacere. Delle sue ragazze, di lei anche di questi 9.000? Assolutamente, che saranno 11, spero, prima possibile e anche di più. Zorro, ci sei? Zorro? Certo che ci sono. L'abbiamo liberato, Franco Piantani. Dopo due settimane chiuso in cantina a guardare il mondiale delle italiane, finalmente l'abbiamo liberato, deve raccogliere i frutti. Infatti io volevo dirlo a Franco, se hai bisogno di aiuto basta che mi chiami. Infatti... al mio caro ex amico Carlo Genta, che se volesse salire sul carro ci penso io a tenerlo giù dal carro della pallavolo, non si preoccupi. se lunedì ti chiama sei autorizzato. Assolutamente, però è vero che Carlo come al solito esagera, lui è un provocatore, però ragazzi hanno fatto un'impresa mostruosa, cioè ma veramente mostruosa. Poi non è vero che in casa loro l'unico risultato e via dicendo. Davvero Bonita lo diceva, questo è un mondiale che sta giocando alla grande, una grandissima pallavolo, ma la cosa più sorprendente è che qualunque mossa loro facciano funziona. A tal punto da dire quasi ma è impossibile che sbaglino, cambiano giocatrici, entrano quelle giovani, entrano quelle esperte, nessuno dice niente, fanno delle cose meravigliose. Ieri sera con gli Stati Uniti, primo set dietro di 4 punti e tutte le cose migliori nei momenti più importanti. Ed è, ripeto, noi ci facciamo l'abitudine adesso, ma questa è veramente un'Italia inimmaginabile. No, io volevo raccontare un piccolo retroscena, non perché per farmi bello di essere salito sul carro già mesi fa, ma a metà aprile sono andato a vedere lo spettacolo, tra l'altro bellissimo, di Andrea Zorzi in teatro qui a Milano, la leggenda del pallavolista volante, e quella sera a fine spettacolo ci fu un piccolo dibattito, mettiamola così, in cui una chiacchierata, esatto, animata da te Andrea, in cui c'era Rachele San Giuliano, esatto, che c'era nel 2002 campionessa del mondo, e c'era anche la Tigre Arrighetti. E io devo dire che da esterno e insomma ai tempi non diciamo affezionatissimo, comunque seguace della pallavolo, mi era venuta un po' di tristezza sentire parlare la Arrighetti, perché mi sembrava non ci credesse nemmeno lei che a quello che sarebbe potuto essere, e sembrava un mondiale da vivere con molta fatica e con molta difficoltà. Era così, no? Invece ha ragione Genta, eravamo favoriti. No ma assolutamente no. Guarda, io ho detto più volte e lo ripeto ancora adesso, felicissimo di essermi sbagliato. Se fossero arrivate tra il 2006 era già una grande impresa, e invece hanno fatto molto di più. E quando adesso Franco raccontava della situazione, dell'ambiente che c'era un po' di tempo fa, è chiaro, mondiale in Italia, lo si deve sicuramente promuovere, ma la preoccupazione era quella che quest'Italia non fosse così strutturata per arrivarci. Aggiungiamo anche che l'avvicinamento a questo mondiale non è stato proprio così semplice: infortuni, cambi di strategie, ragazze che arrivano durante la stagione, quindi c'erano tutte quante le possibilità anche per un fallimento vero e proprio. E invece finora, passettino per passettino, prima con la Croazia, poi con la Germania, poi con la Repubblica Dominicana, queste cose qua si va avanti. Ripeto, io credo, spero davvero che rimanga questo atteggiamento di un passettino alla volta, perché finora ha funzionato. Certo, non mi aspettavo che vincessero con la Cina, non mi aspettavo che vincessero 3-0 con gli Stati Uniti. Aggiungo solo un'informazione: per la verità basta che stasera gli Stati Uniti non vincano da 3 punti con la Russia e noi siamo già matematicamente qualificati. Allora, ma poi conviene scegliersela la semifinalista, cioè è meglio far di tutto per evitare il Brasile, o a quel punto si può anche tirare, è venerdì, poi c'è sabato, poi c'è domenica, si può anche magari tirare un po' il fiato, tanto in semifinale una vale l'altra. Difficile. Io farei così, guarda, credo che il Brasile di là vinca quasi a mani basse, l'ha già fatto con la Cina e anche con la Repubblica Dominicana, quindi io darei quasi per scontato, se questa parola ha senso in questo mondiale, che il Brasile sarà primo. Quindi per noi sarà fondamentale riuscire a vincere, perché effettivamente la seconda, che sia Cina o Repubblica Dominicana, è decisamente meno forte del Brasile, quindi non siamo di fronte a quella situazione in cui dovremo fare cose antisportive per scegliere l'avversario migliore, questo ci semplifica la vita. Certo che, ripeto, con la Russia non sarà facile, però siamo molto molto vicini ad essere matematicamente qualificati ai quarti, alla semifinale. Io volevo chiedere una cosa a te, Andrea, che sei un fine psicologo sportivo, insomma. Sì, vai. No, io volevo capire se, siccome è una squadra senza superstar, nel senso che, come direbbe Carlo Genta, è una delle sue frasi preferite, la superstar qui è la squadra, però se il lavoro è di Bonita, cioè, cosa ha Bonita? Nel senso, è il suo carisma il segreto di questa nazionale? È il lavoro di Bonita che è riuscito a mettere assieme non solo giovani ed esperte, ma a mettere assieme giocatrici che fino a 2-3 settimane prima delle convocazioni erano completamente fuori dalla nazionale. Paola Cardullo a metà agosto era a Cesenatico a vedere gli amici che giocavano a foot volley e non si immaginava minimamente. Lalo Bianco nemmeno. Ferretti si è rotto un menisco il 18 di agosto e adesso è in campo. Cioè, qual è il segreto? Nel senso, sono delle alchimie magiche. La Danimarca che vinse l'Europeo nel 92 partendo dalle vacanze, ricorda magari un po'. Tante volte ho detto che non esistono segreti, non esistono ricette che garantiscono la vittoria. Ci sono però delle modalità, cioè l'idea di lavorare con molta intensità, di non guardare a quello che manca ma a quello che abbiamo, e non c'è dubbio che quello che è accaduto in questa estate, che è stato anche abbastanza complicato, è stato affrontato nel modo migliore possibile. Lo bianco poteva essere un po' seccato perché è stata chiamata in corsa come per Costa Grande, e invece nessuno ha mai evidenziato questi problemi. Onita è riuscito, lavorando seriamente, a far sì che la squadra si ritrovi con grande, come dire, sintonia, ma poi la giovanissima Chirichella, la Juf, si trova perfettamente con le più esperte, e questa è veramente la grande gioia di questo. Non c'è, per la verità, non c'è un modo in cui sei sicuro, hai la garanzia che questo avvenga. E questa nazionale, senza nulla togliere al loro merito, in questo momento sta facendo solo cose belle. Quindi, come giornalista, non puoi trovare un filo rosso che ti racconti quali sono state con precisione le scelte corrette che hanno portato a questa vittoria. Meno male, è la magia dello sport, meno male che non si può trovare. Esatto, bravo, bravo, esattamente questo. Questa è una di quelle situazioni, tra l'altro, come è accaduto 20 giorni fa in Polonia con la nazionale polacca, è la prova che lo sport a volte ti presenta davvero delle magie che non hanno una spiegazione così chiara. Certo, merito ce n'è tantissimo, ma non puoi riconoscere con precisione qual è il percorso che hanno fatto e dire: siccome hanno fatto questo, questo e quest'altro, hanno vinto, perché non è così. Succede anche al contrario per i grandi fallimenti, tornando alla Polonia, ad esempio, della nazionale maschile. Però Zorro, c'è il traffico, ti dobbiamo salutare. Ciao Andrea, grazie. Ciao ragazzi, a presto. A prescindere dalla mia prestazione, credo sia stata una prestazione corale. Siamo state brave in ogni fondamentale, forse un po' calate in battuta in alcuni momenti, partite un po' contratte all'inizio del primo set, con qualche errore di troppo, ma non abbiamo mai mollato, che era la cosa che ci eravamo dette. Sì, abbiamo rimandato Franco Piantanida ad aprire il forum. Stasera si gioca, non tocca a noi. Però siamo nel vivo, scrive Luca 349-238-6666. Buongiorno Giovanni, purtroppo vinceranno le brasiliane, noi vinceremo la medaglia d'argento. Magari anche capitasse così, sarebbe comunque un grandissimo successo, e il perché ce l'ha spiegato Andrea Zorzi. Andrea da Bologna, Andrea. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi convocato. Prego. Io volevo tornare sul discorso Tavecchio, perché mi sembra assurdo ricordarsi solo della frase quando parliamo di un personaggio di 71 anni con il passato che ha avuto Tavecchio. Quindi parlo delle varie condanne, di tutto ciò in cui è stato implicato negli anni passati. Secondo me è come chiedere ad Andreotti, che ha creato questa Italia, di cambiarla. Sì, però Andrea, è anche vero che esiste un regolamento che parla anche di eventuali ineleggibilità, e Tavecchio era, almeno a norma di regolamento, perfettamente eleggibile. Esiste anche un processo democratico per cui Tavecchio è stato votato, è stato eletto, chi ha fatto la battaglia contro Tavecchio ha perso, e quindi adesso Tavecchio deve lavorare. Io dividerei le due cose, ciò non toglie che quest'estate, dopo quelle parole, avrebbe fatto bene Tavecchio a fare un passo indietro, o qualcuno, se era nelle possibilità, ad obbligarlo a fare un passo indietro. Giuseppe da Bologna, Giuseppe. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi convocato. Prego. La mia opinione è ancora più, come dire, tranchant, nel senso che qui siamo ben oltre l'essere o non essere razzisti. Qui siamo, credo, in un caso di incapacità, di non riuscire a gestire una carica, cioè non riuscire a gestire un discorso ufficiale in un ambito ufficiale. Una persona che non riesce a adeguare il proprio linguaggio a seconda dell'ambito in cui si trova è, a mio modesto avviso, una persona non adeguata al ruolo che le si chiede di occupare. È un consesso di suoi pari non riuscire a gestire, a dare l'opportunità di eleggere una persona più in gamba, a mio modesto avviso. Quindi è ancora più triste. Sì, c'è evidentemente qualche limite di comunicazione, lo abbiamo scoperto quest'estate, perché quest'estate Tavecchio è uscito alla ribalta da candidato della federazione, e questi limiti si sono visti. È vero, probabilmente non è un problema di razzismo, è più un problema di difetto di comunicazione. Ma lo abbiamo sentito anche prima nell'intervista delle Iene. C'è a Palermo Tavecchio, Dario Ricci, ciao. credo che sia in arrivo, perché comunque un saluto intanto a tutti da Palermo, comunque non è inibito dall'attività internazionale collegata alla nazionale, ma le notizie che arrivano da Palermo, Giovanni, sono anche più pesanti per quanto riguarda proprio la rosa degli azzurri, perché proprio di questa mattina sono gli infortuni di Thiago Motta e Osvaldo, che non sono neppure partiti da Coverciano. Allora, l'italo-brasiliano tendinopatia all'adduttore destro, per Osvaldo uno stiramento all'adduttore sinistro, e già l'ipotesi più ottimistica parla di un mese di stop. Quindi due assenze che pesano, soprattutto per un tecnico come Conte, che sicuramente su due degli elementi più esperti puntava molto anche per questo doppio impegno non certo proibitivo con Azerbaigian. Sì, mi pare di aver capito che il solo Thiago Motta si giocava una maglia da titolare con Azerbaigian, mentre Osvaldo era destinato alla panchina, però è evidente che il doppio impegno così ravvicinato è una perdita importante anche per Conte, ovviamente lo sottolineiamo, ancora più importante per l'Inter, che perde Osvaldo per un mese e ha già la rosa degli attaccanti ristretta, è in crisi, ha dei problemi Mazzarri, ha Palacio che non è in grandissime condizioni. La notizia è che ha perso Osvaldo almeno per un mese, farà 7 partite nei prossimi 21 giorni. Mi pare di aver capito, Dario, che c'è una grandissima attesa a Palermo, anche se l'Azerbaigian non è un avversario di cartello. Beh, ti dico la battuta che mi ha detto oggi il tassista appena uscito dall'aeroporto. Beh, viene la nazionale, si sono ricordati di noi, nel senso che c'è sempre questo misto di gratitudine e malinconia, no? A Palermo gli azzurri ogni tanto, diciamo, con una buona cadenza passano, e quindi partita attesa, anche perché c'è curiosità per questo Azerbaigian. In panchina c'è quel Berti Fox, reduce della partita del secolo di Messico Italia Germania 4-3, che oggi ha detto ancora non mi è andata giù quel 4-3, e ha anche fatto i complimenti a Conte, a Immobile e a Zaza. Immobile ha detto sarà un attaccante che farà molto bene nel campionato tedesco, e temo entrambi, perché sono una coppia gol che mi piace parecchio. Sì, io temo un po' più l'Italia, ricordiamo che qualche mese fa in casa con l'Armenia siamo riusciti a farci del male da soli pareggiando, bastava vincere per essere nelle prime 8 del ranking FIFA, avere un sorteggio migliore al mondiale, siamo riusciti a pareggiare. Attenzione, perché queste sono le partite in cui storicamente la nazionale italiana poi rischia di lasciare punti importanti, non per la qualificazione, perché ci siamo poi sempre arrivati, ma per arrivarci con il fiato un po' meno corto. Direi proprio che hai centrato il tema, sono due partite da 6 punti e anche da poca fatica, cioè non bisogna soffrire più di tanto per portare a casa questi 6 punti. La nostra tradizione dice tutto il contrario, che gli azzurri prendano esempio dalle azzurre del volley, dai, come del resto Conte lo sai, ha fatto già questa telefonata bonita, magari a lui non è che servono motivazioni per mettere sotto torchio, ma magari in questo caso anche le azzurre del volley possono essere di ispirazione. Sì, mi dai il programma di oggi? Programma di oggi, allora, sono in fase di allenamento gli azzeri, ma soprattutto alle 18 la favorita, allenamento degli azzurri, e poi conferenza stampa col CT, mentre la conferenza stampa di Berti Fox, di cui ti ho riferito i contenuti, si è svolta già intorno all'ora di pranzo alle 13. Sì, allenamento dell'Italia a porte aperte, lo diciamo agli amici di Palermo, quindi chi vuole può andare a vedere la nazionale, per domani sono già stati venduti quasi 30.000 biglietti, e quindi comunque vada sarà una bella festa di sport. Ci risentiamo domani, Dario. A domani, un saluto da Palermo. A domani, Dario Ricci, ci fermiamo qui. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Io ringrazio Franco Piantanide, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roby Scaltritti in regia. Domani alle 14. Ciao. Il cielo è sempre più blu. È giallo qualcosa, non lo so. Ah, tu già, già. No, non ci sta, fai che cadiglia, fai che cadiglia, stia lì, fa lì giallo, lui a palla. Lo fai giallo, palla, fai che cadiglia. Ma fai giallo no? No, eh. Sì, sì. Palla che cadiglia, stia lì. Fuori gioco, fuori gioco. L'ha toccata. Com'è quella testata lì alla fine? Perché non te l'ho detto, l'ha toccato, ragazzi, è vero, Roberto, io ti ho detto, l'ha toccato. Però non l'ha toccato poi, si è avvicinato la testa, ha toccato, ma lui... Basta, vogliamo la terra, un'altra volta, un mettere tutto per terra. No.